A partir deste momento, Dancitalo. Dancitalo. inconsolable. Musica e poesia, di un po' mafioso, ma non è poi così noioso. Italia per sognare, per credere e ricominciare. Italia per la moda, sei la più forte in Europa. Pizza, pane e Chianti, Italia devi andare avanti. Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia. Do it. We'll be right back. believe I am what I say I am. We'll be right back. Yes, yes, yes, yes, yes, yes.